luoghi comuni di Riccardo Poli, Alessandro Longoni e Beppe Salmetti. Dai Ale, che ce la puoi fare. Fai le bionde trecce, dai, le bionde trecce. Le bionde trecce, gli occhi azzurri e cos'è poi sta roba? Le tue scarpette rosse. Dai, sono tracordi, la mire. Calzette rosse. Calzette erano, vabbè, uguale. No, dai, la mire. La so anche, però non ci voglio. Ma perché non ci voglia? Dai, le bionde trecce, non la ci voglia. Dai, così tutti insieme, siamo qua, uniti. Ma non ci voglia, dai, la un po' spiaggia, un po', beh, cioè, sali di Vasco, dai, che c'è gli accordi no, più difficili. Vasco non lo la so. Versione della Mannoia, la versione della Mannoia, vabbè, dai. La versione della Mannoia ci mancherebbe altro, figurati. Ho capito, ma non devi cantarla, devi suonarla per noi, noi ma cantiamo non so in gruppo accordi, tutti insieme. Cioè, non è che gli accordi li so così. Vabbè, prendo il telefonino e ti faccio vedere gli accordi, così li hai sotto, non la sbagli. Ci vuole tempo, devo mettermi lì, devo provarla un attimo, cioè non è che... Però non puoi ammazzare così la festa, cosa facevi? Quando eri in spiaggia cosa facevi? Ammazzavi la festa. Gruppo di persone felici che vogliono suonare una bella canzone e tu no, non suoni. Sì, ma non sono un canzoniere, non è che so tutte le canzoni a memoria. Comunque tu eri il classico che facevi di tutto per farti notare, non facendoti notare. Cioè quello che si scherniva e diceva no ragazzi, non ne ho voglia. Intanto ti mettevi in un angolo in spiaggia, tutti intorno al falò e tu là, povero, perché volevi comunque... Povero me che soffro, malinconico. No, mi mettevo lì e facevo le mie cose, improvvisavo. Bravo, nessuno ha mai detto smetti di suonare perché mi hai rotto le palle. No, cioè, ho capito. Facevo un sottofondo non fastidioso. Cioè, sei la colonna sonora della vita delle persone. Bah, no, quello no. Diciamo che non apprezzo. Allora, i chitarristi a spiaggia si dividono tendenzialmente in due categorie. Quelli che sono dei canzonieri viventi e quindi conoscono gran parte delle canzoni più pop, sia italiane che straniere. Oppure quelli come me che sono degli asociali che stanno lì, fanno le loro cose, che conoscono solo loro e forse qualche cristiano. Che però le sanno, Che però le sanno, perché mi hai detto prima che la canzone del sole la sapevi. Sì, vabbè, quella si impara al giorno uno di lezione, però ecco, sai cosa c'è? Che io poi mi dimentico le cose, cioè io le ho anche imparate certe canzoni. A un certo punto della mia vita sapevo fare qualcosa di popolare, poi a un certo punto le dimentichi perché sei più concentrato verso, non so, altre cose. Insomma, sì, ragazzi, va bene le calzette, va bene il sole, Sally, quello che vuoi, ma alla fine, Longhi, trombavi o no? Cioè, perché questo è il punto. No, assolutamente no, zero. Ah, okay. Ecco, vedi. Vedi. Quindi per ora è la conferma. Di cosa? Del luogo comune di oggi. Cioè? Chi suona la chitarra non fa l'amore. Però scusate, neanch'io suonavo la chitarra in spiaggia e neanch'io trombavo, cioè punto è quello. Non è che la chitarra ha un potere magico, almeno non credo, però lo scopriremo oggi forse. Ma c'era qualcuno in questo gruppo, compreso anche il nostro regista Andrea Roccabella che salutiamo, che faceva l'amore o tutti fermi, tutti immobili? Io ti posso dire che riuscivo a cuccare soltanto quando non portavo la chitarra in spiaggia. Quando decidevo di lasciarla a casa potevo concentrarmi un po' meglio sulla seduzione di povere fanciulle che avevano la sfiga di... Beh, vabbè, adesso non buttarti giù, Ale, che cavoli. Vabbè, sì, un po' sì. Comunque, ragazzi, è anche un po' obsoleto questo luogo comune, perché sinceramente, ma esistono ancora nel 2020 i chitarristi da spiaggia? Cioè, mi sembra una cosa, una razza in via d'estinzione, dai, su. Io ne ho visti un paio in giro, è vecchio. Un paio li ho visti. Dici che in realtà la versione 2.0 dei chitarristi da spiaggia sono i ragazzini con il cellulare, con la musica trappa tutto ma spiano. Ma sì, dai, ma siamo dei vecchi. Sì, tra l'altro siamo così vecchi, dai, scusate, cioè... che in scaletta avete scritto musica rap di ragazzini neanche trap. Sì, capito, musica rap, ma che roba è? In questa vita prima o poi si perde, è un'insalata che non sa di niente. Prenderò fuoco in mezzo a questa gente e darò il merito alle sigarette. Faccio quello che non voglio fare, ridere quando vorrei gridare, uscire sempre e non tornare mai, dimenticare quanti anni hai. Tante grazie, Google Maps. Ricalcola il percorso per la felicità, perché anche se tutto va a puttane non ci penso veramente più, anche se c'è una guerra nucleare, un vecchio film alla TV, ho fatto tardi ieri notte per cercare le parole giuste, non ho trovato niente speciale, solo una canzone triste. E questo mood di Google Maps ci introduce al nostro ospite per questa puntata di Off Topic, Claudio Caponetti. Ciao Claudio. Ciao ragazzi, ciao ciao. Allora, Google Maps, effettivamente siamo già in area di cellulare. Tu sei ancora uno affezionato alla chitarra, però, no? Sì, io sono totalmente analogico ancora, e quindi l'ho fatto per tanto tempo, il chitarrista da spiaggia. E cuccavi? Guarda, io sono d'accordo con Longoni che secondo me ci sono due categorie di chitarrista così da spiaggia. C'è un po' l'aggregatore che sa tutte le canzoni, è un canzoniere vivente, sa un sacco di liga. Queste cose piacciono, sì, magari. Con liga vai sereno. Poi sono tremendi perché, scusami Claudio, perché sono tremendi perché sanno parecchie robe in italiano, quindi agganciano la folla. Poi a un certo punto, quindi Vasco, Liga, monopolizzano. Sì, Battisti, queste robe qua, Cocciante, Vecchioni, queste le piazzano tutte. E quindi, boom, basta, la folla ce l'hai. Poi a un certo punto fanno il colpo da maestro per distinguersi un po' dalla mediocrità italiana e quindi pianta, non che siano mediocri gli artisti di prima, però insomma capiamoci, a un certo punto pianta il grande classico anche straniero e quindi Guns N' Roses, Metallica. Un REM. Ma no, i REM sono molto molto di nicchia. Però comunque Liga funziona sempre molto di più, almeno nelle spiagge dove andavo io funzionava sempre più l'italiano, però certo quella è la chicca. Sì. E loro sono proprio prontissimi. Però c'è anche, come dicevi tu, c'è una seconda categoria che è quello un po' più sofisticato, che è il chitarrista un po' più erudito, che è il tecnico, che a me fa straridere, che è quello che gli dai la chitarra classica in mano e ti fa le super locrie, le frigge dominanti, e dici ma che cazzo fai, ma suona a casa da solo, non lo so. Contesto, io non ero nemmeno quello, Claudio, non ero nemmeno quello, perché io non avevo neanche la tecnica con cui strabiliare le persone, io semplicemente suonavo degli standard pseudo blues, neanche blues veri, ma pseudo blues, e niente, e cazzeggiavo così. Quindi scaccia figa, però, due ore. Ma infatti, guarda. Infatti, figura. Basta guardarlo in faccia, Longoni, per capire che in quegli anni di spiaggia... Claudio, il punto che secondo me, anche secondo l'ottimo Beppe Salmetti, ne abbiamo parlato prima della trasmissione, il chitarrista da spiaggia soffre di una cosa di cui soffriamo tutti, un po' di egocentrismo, cioè la luce attorno, cioè su di te, l'occhio di bue, guardatemi, sono qui. E anche Longoni, in questa opera di schernimento, di dire no ma dai non dai ma faccio le mie cose, in realtà è l'egocentrismo inverso, esatto. Sì, cioè il però guardate, un po' così anch'io ero un po' così, cioè nel senso che io non conoscevo bene tutta la discografia italiana all'inizio, facevo solo i pezzi dei Red Hot Chili Peppers e dopo un po' la gente andava via. Sì, è un modo timido per dire ci sono anch'io, però alla fine sei sempre quello che fa il soundtrack per I Limoni Altrui, cioè questo è poco ma sicuro, insomma. Sì, no? Cioè, allora posso dire una cosa, io non credo di aver mai fatto la soundtrack a Un Limone di Altri, perché o avevano la decenza di levarsi dalle scatole. No, ti fermavi? No. Cioè, mi immagino Longoni che si ferma, due limonano, lui è invidioso pure del fatto che limonano questi due, interrompe la base. Allora, aspetta, fammi spiegare la scena. Allora, o se ne andavano loro, perché giustamente andavano a infrattarsi, così potevano fare tutte anche cose ben peggiori di Un Limone. Che moralista. Quindi hai fatto delle basi per persone che fornicavano. No, non mi è mai capitato che persone fornicassero davanti a me, cioè se ne andavano prima. Infatti poi tu dai là. Tu dai là e dopo darsi, loro... Può darsi, non lo so. Cioè io pure ho questa immagine, mi ricordo, durante i Ferragosti, da adolescente, in spiaggia, dove praticamente tu inizi un po' di canzoni, magari c'è l'amico tuo, c'è la ragazza che un po' ti piace, che ti guarda una volta negli occhi, tu timidamente dici, ma forse ce l'ho fatta. E poi arriva l'amico tuo, un po' più sgamato, la prende per mano, l'immagine è quella, capito, dell'alba, e vedi da lontano loro che si distrugge tutto, esatto. Sì, anche oggi trombo domani. Sì. Claudio, tu sei trapiantato a Milano, però sei di Ancona originario. Quindi non sì, dico... sono nato a Ascoli, ma praticamente... Sì, scusa, Ascoli volevo dire, perdonami. Sì. Le confondo sempre, ragazzi, ho problemi della geografia. È Longoni che mi attacca il virus. Esatto, il virus del non sapere dove stanno le città. Ma c'è differenza un po' tra la figura del chitarrista, diciamo, in una città come Ascoli o comunque nella provincia e poi il chitarrista a Milano? Perché credo che sia uno shock arrivare qua a Milano, insomma, dove ce ne Guarda, sono tanti di chitarristi. È uno shock arrivare a Milano e provare a fare il chitarrista di mestiere, questo sicuramente. Perché io, anche insomma, perché non ci sono spiagge qua. No, non ci sono spiagge, ma poi è... Io ho suonato tanto in giro all'inizio per riuscire a avere un po' di soldi. Negli anni ho fatto tantissimi lavori, però per riuscire a campare di musica facevo tanti concerti in posti più, nei posti più assurdi, dai ristoranti. Per un periodo ho fatto serate tutte le settimane su corso di Porta Ticinese, mi sembra. Cioè, uh-huh, che praticamente è un girone infernale, cioè, davanti al Rattazzo, cioè tutte le settimane facevo cover e me ne succedevano. Oh, Claudio, fai Maracaibo. Suona Maracaibo, per favore, Claudio. Raga, la sai, raga, la sai quella così, nuova? Dai, fammi la nuova di Calcutta. È così, cioè... Alla fine, scusami, però te le sei imparate le canzoni, eh? Ti sei messo lì, le hai studiate, le canzoni di altri, per agganciare per le forza, persone. No, per forza, per adesso. Forza, le cover le devi fare, anche perché... Però magari io ero un po'... cercavo di fare i Verve, capito? I fai Oasis, che certo, alla fine... Certo, una pacca sulla spalla, soprattutto però, in Italia. Però era una durissima. Una pacca sulla spalla, soprattutto in Italia. Ma a proposito, tu hai anche girato l'Europa, ho letto. Cioè, sei andato in Portogallo, in Francia, in Russia, insomma, hai attraversato anche altri pubblici. Qual è stata la risposta di strada? Io quando facevo il chitarrista da spiaggia, poi ho iniziato a farlo veramente in Erasmus, perché suonavo al Bairro Alto, quindi suonavo lì, non lo so, da mezzanotte alle 3 di mattino. Mi pagavano comunque bene, perché tipo guadagnavo 70 euro a serata, no? Hai capito? Che però... Esentasse, che però... Come versavi? In che cassa versavi? Non versavo niente, ma Portogallo. Che però... 70 euro, ragazzi, fermi tutti, dato che io un po' ho fatto anche un pochino il lavoro di Caponetti in versione molto più ridotta, certo, ma 70 euro non le guadagnano neanche le band nei locali oggi. O quando ancora suonavano, no, aspetta, le band se porti locali. Pubblico, perché poi il luogo comune è quello, devi portarti pure gli spettatori. No, neanche quello, se porti pubblico vedi 15-30 euro al massimo. Sì, si dividi. Però ragazzi, il Bairro Alto, io suonavo 3 volte a settimana in un locale, c'avevo un potere d'acquisto pazzesco. Cioè, non me li davano in Italia quei soldi lì, perché c'era tutto il casino del Bairro Alto, la gente che entrava, usciva, e addirittura alcuni che magari gli facevi il pezzo degli MGMT, non lo so, arrivava l'inglese e dice, cavolo, che figata, mi lasciavano la mancia. Quindi ho fatto sta cosa qua, mi sono detto, vado a Milano e faccio il chitarrista. Invece no, per niente. Scusa, cioè, stai dicendo, stai aprendo il luogo comune famoso che all'estero ne sanno più di musica, perché tante canzoni sono in inglese, quindi giusto? No, no. No. Dico semplicemente che lì magari c'era più girava di più questa cosa della festa dentro il locale, quindi della compagnia. Sì. C'era una creazione. Allora, dato che siamo al programma dei luoghi comuni, un luogo comune è che in Italia al pubblico non gliene frega nulla di vedere uno che suona la chitarra. Vabbè, tendenzialmente, ragazzi, lo sapete, ci sta. Cioè, o sei una tribute band di Vasco, che poi io le tribute band le detesto, ok? Ecco. Le detesto. Allora, o no, sei salutiamo tutti gli amici delle tribute band. Ma no, le detesto. Faccio sempre il democristiano. Sai che ho sentito tribute band migliori comunque dei cantanti a cui facevano il tributo? Sì, ma non dirò chi, ma sì, ma sono bravissimi, certo, ma sicuramente. Ma non servono al mondo, ok? Le tribute band servono in Italia per riempire un locale che tendenzialmente non vuole rischiare. Quindi, c'è una tribute band dei Queen. Boh, adesso mi arriverà una querela della tribute band dei Queen. È più importante. Beh, però è un mio giudizio personale. Che è uno di quelli che ho visto, tra l'altro. Ecco, benissimo. Allora, in Italia non c'è proprio la cultura di dire, interessante, vediamo cosa fa. Quindi la domanda che ti faccio, Caponetti, è: sbaglia il pubblico perché dovrebbe dare un'opportunità e ascoltare e farsi una cultura su che cosa vuol dire suonare una chitarra, proporre una canzone anche in inglese? Oppure sbaglia l'autore perché effettivamente noi che suoniamo la chitarra, non tu, facciamo cagare, cioè facciamo schifo? Ragazzi, non lo so, perché cioè, la gente di base si vuole divertire, vuole uscire, vuole bere, non gliene frega un cazzo della musica che scrivi tu. Poi se raggiungi un minimo di livello di popolarità magari ti viene a sentire. Il punto però è, come cito Giorgio Montanini, mio conterraneo, che dice: non ci sarà rivoluzione in Italia finché esisteranno le cover band. Comunque abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori di mandare dei WhatsApp sul tema di oggi, sul luogo comune. I chitarristi da spiaggia alla fine non riescono a trombare, non concludono, mandandoci un messaggio WhatsApp al 340 8303 758, e questo è uno dei contributi che ci è arrivato. Ottimi chitarristi da spiaggia, in realtà ottimi, perché loro credono di essere i più fighi, però le fighe vere non guardano i musicisti da spiaggia, quindi in tutto quel baradam intanto te rimorchi. Cioè la tecnica. È arrivato lo spavaldo qua. Però sicuramente, ragazzi, il chitarrista... La cosa che mi ha sconvolto quando sono andato a Milano è che, quando sono venuto, insomma, che ho fatto tanti lavori oltre al chitarrista, al musicista, per campare, no? E mi sono reso conto che un pochino il chitarrista è all'ultimo gradino della piramide riproduttiva, comunque, in generale. Sì, perché per me è un animale istinto. Ma dai, sì, perché cioè, alla fine io ho lavorato nella pubblicità, in tante cose, ho fatto l'assicuratore per 10 giorni, ho lavorato in un'azienda e mi sono reso conto che cioè, tantissime categorie arrivano prima del DJ, cioè tipo non lo so, il DJ, quando sono arrivato a Milano non pensavo, ma il DJ è affascinante, è tenebroso, sì, c'ha più soldi, perché è resident DJ, è più droghereccio, cazzo te stai e lì, poi fai le cover, ti può offrire dei cocktail in discoteca. Esatto, ma io facevo le serate, vi dicevo, in quel girone infernale, a me ogni tanto ho beccato dei compleanni di 18 anni e mi hanno messo le bamboline gonfiabili intorno al collo. C'è un'altra cultura dell'intrattenimento. Insomma, Caponetti, ma perché non hai fatto il trapper invece di fare il chitarrista? Ecco. No, guarda, adesso mi converto, non lo ti prego, so, però. È arrivato il momento. No, l'ha detto, ha detto mi converto, quindi preparate, sì. Andre, prepara per favore la base, adesso sì. Facciamo un trap in diretta, Longoni versus Caponetti. Longonetti, vai. Facciamo un freestyle. Cosa facciamo? Improvvisiamo? Vabbè. Sì, improvvisiamo. Così, vai. Vai. Yo, MC Capo, qui con me, nello studio di Off Topic, Vai, dammi il 5, bro. Partiamo col freestyle, bro. Sì, vai col freestyle. Piovono karate bling. Non lo so, bisogna metterci dentro macchine, soldi e puttane. Sì, bisogna fare anche dei versetti una volta ogni tanto, tipo blink. Io. I cuori nostri incatenati bling bling. Non lo so, raga, cioè più che bling non mi viene niente, non ti metto due pechegni. Vai, capo, diamoci le nocche, capo, spacchiamoci la testa insieme, capo. Caponetti, vieni dalle Marche o da Ancona. Io non so niente di geografia, non so neanche dove sta il Molise. Anzi, lo so, il Molise esiste, ma la tua regione non la conosco ancora. Forse non ci andrò mai, bella zio. Capo, dammi di nocca, yeah man. Yeah, yeah, yeah, ha una rima baciata. Preferisco una limonata. Una borsa Balenciaga. Balenciaga ci sta, è vero, il marchio è importantissimo. Capisci che siamo destinati a sparire da questo pianeta. Poi ci chiediamo perché i ragazzi giovani non ascoltano. Ma perché non abbiamo più niente da dire. Il nostro podcast su Spotify. Io mi vergogno anche di quello che ho appena fatto, sinceramente. Quindi non lo so come stia non vergogniamoci. Non vergogniamoci. Off Topic è un luogo di sperimentazione, sì, in cui non abbiamo paura di nulla. Ok, quindi abbiamo sputtanato una categoria che è serissima, perché attenzione, voglio essere chiaro, i trapper fanno un lavoro preciso, infatti noi che siamo la dimostrazione mentecati, è questa cosa schifosa che hai appena fatto, che tu non sai fare e loro lo fanno benissimo. Io non la so fare, ho provato a farla, infatti. Fa schifo, allora ascoltate gli artisti veri. E comunque ragazzi, la soluzione è che vi dovete tatuare probabilmente una lacrima sul viso, così almeno già entrate nel giro giusto. Non so neanche se si dica giro, perché forse è anche vecchio come termine, ma direi proprio di sì. Anche una lacrima sul viso sul viso. Quindi secondo te, scusa Claudio, la figura del chitarrista sulla spiaggia, quello anche un pochino Zanza per chi abita nelle zone della Romagna, è un po' destinato a scomparire, eh? Non è più una figura che secondo te tiene nel 2020? Ma non lo so, magari ci avete ragione voi, ci sono nuovi supporti tecnologici, quindi ci sarà il chitarrista da spiaggia con l'iPad che ha le basi. E ma infatti la verità, Claudio, è quella. Il trapper da spiaggia, la verità non è che lo so, ormai uno arriva con la sua bella cassa Bluetooth, la accende e sostituisce la chitarra. In questo vincono le nuove generazioni, perché uno si accende la musica e può limonare con la tipa. È molto più comodo. È il ritorno, ragazzi, un po' al ghetto blaster degli anni Ottanta, cioè lo stereo portato a spalla, sì, che veniva fatto suonare nei vicoli e nelle strade. Allo stesso modo, cellulare in mano, Spotify, parti con la playlist e poi puoi farti gli affari tuoi con gli amici. Però ragazzi, attenzione, perché ci potrebbe essere un effetto nostalgia canaglia, per cui arriva, dai, portiamo una chitarra, cioè, capito? No, non credo ancora. Io ma tu la sai suonare? No. La portiamo e basta. L'altra sera era luna di notte, tornavo a casa con la macchina, passo dalla piazzetta sotto casa mia, c'era una cumpa di ragazzine, avranno avuto tra i 18 e i 21 anni, erano tutti lì col cellulare in mano che facevano andare il rap, la trap. Scusa, ma ognuno ascoltava la sua? O no, erano lì che ascoltavano una per tutti. No, si davano di gomito, erano lì presi bene, insomma, erano molto divertiti. E cioè, se io mi fossi presentato, o un loro coetaneo si fosse presentato con la chitarra, l'avrebbero quantomeno menato, diciamolo serenamente. Io volevo fare un piccolo gioco con Claudio e con voi due ragazzi, perché mi sono immaginato i grandi chitarristi, i grandi cantanti che noi conosciamo, insomma, che sono contemporanei adesso, che però un tempo andavano sulla spiaggia con la chitarra e non scopavano. Cioè io immagino, per esempio, non so, lancio lì un nome, credo che Lenny Kravitz non abbia mai avuto grandissimi problemi, neanche da giovane. No, infatti, Lenny Kravitz cuccava a 10 anni. Io penso anni. Che aspettavano tutte che lui lasciasse a terra la chitarra per poi dire, senti, Lenny, vorremmo parlare con te. Ecco, questo è l'esempio di chi concludeva pur avendo la chitarra. Ma Claudio, ti viene in mente un nome di qualcuno che palesemente, cioè, quando era giovane pur suonando la chitarra, comunque non concludeva una mazza? Beh, secondo me, famosi, adesso non so se dico nomi un po' troppo strani, però tutta... quella roba tipo Joe Satriani, Steve Vai, i veri chitarristi che fanno solo dischi di tecnica assoli pura. Di chitarra, secondo me comunque... Prima non cuccavano nulla, dici? Cioè erano comunque i nerd picchiati dai quarterback, diciamo, in America, secondo me. Io li vedo un po' così. Tipo, sì, ad esempio, Ed Sheeran, non credo che prima di essere Ed Sheeran fosse un gran conquistatore, ma non voglio rilevare nulla, Ed Sheeran forse avrà cuccato decisamente più di me. Ma quello sicuro, però quello non ci vuole nulla. Sì, non ci vuole nulla. Alessandro, non so quali spiagge frequentasse Ed Sheeran, ma immagino che fossero molto ventose e molto fredde. Sì. Comunque, credo che andiamo in spiaggia a suonare con la chitarra. No, Ed, basta, per favore, che fa freddo, è dicembre. Se no muoio assiderato, anche a giugno muoiono assiderato. C'è una hit dell'estate, se non sbaglio, o meglio, c'è una canzone che volevamo lanciare all'interno del nostro programma a cura di Beppe Salmetti. Io vi giuro, la prima volta che la sento, siccome stiamo lanciando non questa so che cosa, ragazzi, a te l'onore, Beppe, dirci cosa stiamo per ascoltare. Questa è la prima marchetta ufficiale di Off Topic, diciamolo, dopo 50 e 60 puntate, siamo in onda da 4 anni, questa è la prima marchetta, concedetecela. Ma non è una marchetta, esatto. Ragazzi, scusatemi, ho fatto l'unica canzone che ho fatto suonando solo la chitarra e voce, facciamo una puntata sulle chitarre, spiaggia, ascoltiamo. Volevo farvi vedere perché è non cuccavo, bello. Cioè questo disco ne è la dimostrazione. Bello. Ecco perché. Vorrei essere un canguro, saltare con un volo ogni muro del tuo cuore. C'è un po' d'amore, no? Darti un bacio e poi scappare più veloce della luce. E quindi forse vorrei essere la luce. Accendermi ogni giorno davanti a un tuo sorriso. Spostare indietro l'ora per averne una in più. Far l'amore sulle dune dell'Australia dei safari. Pensare che fino a ieri. Tutti insieme al ritornello. Portami con te sulla tua Jeep, quella color khaki. Portami con te sulla tua Jeep, quella color khaki. Ah, continua così. Portami con te sulla tua Jeep, quella color khaki. Color khaki. Beh, è molto bella. Beh. Poi c'è tanta tristezza. È molto bella questa canzone. La mestizia. Caponetti, dacci un voto. Nuovo Bersani. Nuovo Bersani. C'è qualità qui. C'è anche dell'indie. C'è anche dell'indie. Sento dei sapori americani. Non vorrei dire Elliott Smith. ma siamo lì. No, non sto scherzando. Non vorrei dire Elliott Smith. Comunque, tra i WhatsApp che ci hanno mandato i nostri ascoltatori, ce n'è uno che secondo me mette un po' una pietra tombale su questo luogo comune, e vediamo che cosa ne pensa anche Claudio. Ciao a tutti, sono Simone e volevo dire che non è vero che chi suona la chitarra ai falò non conclude, solo chi suona la chitarra male non conclude ai falò, chi la suona bene conclude. Ciao. Ecco, perfetto. Così ci ha bullizzato. Devo dire che pontificano in tanti, comunque. No, c'ha ragione, guarda, sai la cosa più frustrante della mia carriera di chitarrista da spiaggia? È che io suonavo e vabbè, tiravo, cioè, è quello che era. Poi a un certo punto arrivava un amico aggiunto con la chitarra, anche lui, no, senza chitarra, un bravo chitarrista. Mm-hmm. Arrivava, faceva dei pezzi della Madonna, spaccava i culi e lì dicevo, vado via. Cosa devo fare? Sono un loser. Devo dire, a fine puntata, devo confessare il fatto che io sempre ho odiato i chitarristi da spiaggia, e lo devo dire perché mi ricordano la mia fase di infanzia Boy Scout. Quindi io ho sempre quel rimando, ecco. Un po' cattolico, se vogliamo. Solo canzoni di chiesa, bravissimo. Sai, tipo, non so. Hai un po' una risposta pavloviana, esatto. Diciamo. Cioè li vedi e cominci a sclerare. Esatto, cioè nel senso, no, io li vedo, mi ci butto perché poi mi diverto, sono un compagnone, quindi voglio anch'io emergere, l'egocentrismo. Sei un po' Berlusconi con l'apicella, tu cominci a cantare. No, lui in realtà secondo me partiva con le barzellette, capito? Ah, ne so una, so questa, sì, certo, so questa. Certo. E tu fai, no dai, stavamo cantando Ligabue, so questa, basta. So questa. Anche lui. E quindi questa cosa qua mi ha sempre lasciato un pochino così, i brividi sulla schiena. Devo dire che quando Claudio parte a suonare, io lo ascolto, non canto e mi diverto sempre. Quindi intanto ringrazio Claudio. Claudio di essere stato con noi off topic, grazie mille veramente. Grazie a voi. Grazie Claudio. Ragazzi, non vi auguro di fare i Boy Scout, voglio bene ai Boy Scout, però ecco, è stata un'esperienza. Infatti non so cosa mi sono perso e non tornerò indietro. Però dai, andare in tenda, un po' la poesia della tenda. Beh, quello l'ho fatto, ma non necessariamente con i Boy Scout. Allora, adesso arriverà una querela dai Boy Scout. Ma chiaro, no, ma programma querela. Chiuso settimana prossima. Ognuno lo fa, chi lo fa, chi non lo fa. Allora, facciamo un momento Mastrota, lo sapete. Ragazzi, i contatti ci trovate su Instagram offtopic24. Seguiteci lì e rimanete aggiornati su tutto quello che facciamo. Potete riascoltare tutte le nostre puntate su tutte le piattaforme podcast che conoscete o che preferite, quindi Spotify, iTunes, Google Podcast. Riascoltate le nostre puntate. Noi siamo il programma dei luoghi comuni, abbiamo fatto un luogo comune per puntata, scegliete voi come le caramelle, prendete quello che vi pare, ve lo sentite e dateci dei feedback. I feedback li potete mandare via WhatsApp al 340 8303 758, o se no, per chi avesse Telegram, andate su offtopic-radio24, entrate nel nostro gruppo, facciamo due chiacchiere e ci conosciamo. Basta? Così? Così, sì. Sì, direi basta. Poi meraviglia. C'è anche Twitch, se vuoi sponsorizzare anche Twitch, certo. Siamo anche il primo programma radiofonico italiano ad essere su Twitch. Pensa a te. Off Topic 24, ci trovate lì. E soprattutto sapete cosa non facciamo su Twitch? Non suoniamo la chitarra, per fortuna. Ma beh, non ancora. Facciamo i rap, attenzione, però facciamo i rap. Off Topic, fuori dai luoghi comuni. Produzione a cura di Andrea Roccabella.